Signore, iniziamo con la nostra serata. Io ho le solite cartoline della biblioteca, perché abbiamo parecchie iniziative in serbo per voi, tra cui quella di questa sera, e ringrazio a questo proposito il dottor Marchioro. Non è la prima volta che viene qui al Centro Trevi per la biblioteca provinciale ad organizzare delle serate. Il tema è Freud anche questa sera. Del resto il dottor Marchioro è lo storico della psicanalisi, quindi abbiamo sempre con grande piacere ascoltato e seguito le sue serate, che vengono registrate e sono disponibili se volete riascoltarle o comunque segnalarle a chi non ha potuto partecipare tramite il nostro sito, il sito della biblioteca provinciale. Quindi questa sera ascolteremo dalla voce di Francesco Marchioro la presentazione del libro che qui vedete, Freud, genio infedele, identità di un ebreo tedesco irreligioso. Vi segnalo poi un appuntamento di dopodomani, mercoledì 4 ottobre, sempre qui presso il Trevi Lab, organizza la biblioteca provinciale la presentazione del libro Teatro è vita, una biografia di Antonio Caldonazzi, attore, regista e drammaturgo, a cura di Paola Bernardi con la lettura di Maria Piazzanetti, quindi fra due giorni qui sempre alle 17:30. Infine abbiamo parecchie conferenze, il calendario è appeso fuori all'entrata, all'ingresso della biblioteca e all'ingresso del Trevi Lab, conferenze dedicate all'immigrazione, alla povertà, ai viandanti nell'arco dei secoli, quindi saranno delle conferenze di carattere storico organizzate con l'Università di Trento e anche quella di Bolzano. Non vi racconto tutto il calendario, potete prenderne visione direttamente fuori all'entrata, oppure se avete piacere, iscrivendovi alla biblioteca, riceverete poi le varie newsletter di avviso. Altri due appuntamenti che volevamo segnalarvi sono i nostri gruppi di lettura. I gruppi di lettura sono un esperimento, anzi una modalità di incontro e di discussione molto più intima e meno frontale, dove le persone si trovano con un facilitatore o una facilitatrice, si legge un libro tutti insieme oppure più libri e si affrontano i temi con un dialogo e una discussione condivisa. I due gruppi di lettura si troveranno l'11 ottobre alle 17:30 col titolo L'Officina del Pensiero, quindi si sviluppano dei temi, dei concetti filosofici. Questo mese lo dedichiamo al concetto di bellezza. E poi il 25 ottobre alle 17 invece parliamo di un romanzo locale, quello di Sara Poma, dedicato a Maria Silvia Spolato, Il coraggio verrà. A questo punto ringrazio dello spazio che mi avete lasciato per raccontare le iniziative, il servizio che viene erogato dalla biblioteca. Ringrazio ancora una volta Francesco Marchioro, perché con le sue attività, con le sue idee, le proposte, aiuta la biblioteca a diffondere il piacere e la curiosità della lettura e per i libri. E con questo vi saluto e vi invito a tornare anche alle prossime iniziative. Buona serata e grazie. Buonasera, grazie alla biblioteca Claudia Augusta per l'ospitalità, nella persona particolarmente della sua direttrice Valeria Trevisan, e ringrazio Silvia Vegeti Finzi, che ha scritto un'introduzione a questo libro, di cui leggo solo due righe. L'orgogliosa dichiarazione «La mia vita è la psicoanalisi», come scrive Freud nel momento in cui avviene la rottura con Carl Gustav Jung, si assume la paternità di questa sua scoperta, di questa sua nuova terapia e teoria della psiche, lo imbriglia in una contraddizione irrisolvibile. Se riconosce il fondamento ebraico della sua scoperta, la emargina. Se la affida alla cultura classica, rischia di smarrirne i fondamenti. Ecco, quindi già in questa breve citazione dalla sua opera vediamo come sia complessa la figura, l'identità di Sigmund Freud. Questo libro nasce inizialmente sulle tracce di una, della preparazione di una mostra che avevo allestito già e avrei dovuto curare per la Galleria Civica nel 2021 in occasione dei Giorni della Memoria su Freud, l'ebraismo e il ricordo. Il Covid non ha permesso che si tenesse, ma il tema mi si è aperto a sua volta verso nuovi sviluppi. E ringrazio per l'occasione l'Assessorato alla Cultura italiana, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bolzano, nella figura particolare della sua direttrice Anna Vittorio, e di una sua collega, la quale è stata molto attiva nella indicazione anche di fonti, che è Carla Giacomozzi, e tramite la quale ad esempio abbiamo scoperto che le tre sorelle di Freud che non poterono uscire da Vienna quando nel 38 invece a giugno questo fu concesso alla famiglia ristretta di Freud morirono appunto deportate nel 42, una nel campo di sterminio di Terezin e le altre due a Treblinka. Ecco, la storiografia dava altri riferimenti, ma questi sono quelli che siamo riusciti a conoscere con fonti storiche. Il libro sviluppa un'ampia trattazione. Inizia con lo Shtetl di Freiberg, dove Freud nasce, l'ebraismo a Vienna, quello che incontra Freud dopo il terzo anno di vita, quando da Freiberg la famiglia si sposta a Vienna, Martha Bernet, ebrea ortodossa e moglie di Freud, quindi la ricerca sulle origini della religione con Totem e Tabù, il Mosè di Michelangelo e la questione Jung, l'uomo Mosè sia di Michelangelo che l'uomo Mosè della tradizione ebraica, il carattere dell'ebreo e l'identità di Freud, quindi la Finis Austriae, la questione se la psicoanalisi sia un sapere ebraico e due appendici in cui c'è un inedito di Otto Rank, di cui ho curato le opere per l'Italia, sull'essenza dell'ebraismo e una questione che è stata sollevata a proposito di Jung, che io ho intitolato Jung e il demone del potere. Cioè è stato, se avremo tempo lo vedremo, Jung è stato accusato di antisemitismo e di filonazismo. Vedremo, io non ne faccio un processo, ma ho indagato sui suoi libri, sui suoi scritti e su quello che tra Freud e Jung si è scambiato a questo proposito, e appunto qualcosa ho cercato di dire di nuovo. E se volete anche un pregio che Silvia Vegeti Finzi trova in questo libro è proprio il fatto che io non do nessun giudizio morale sulle questioni, sia riguardo alla religione che all'ebraismo, che a queste accuse più o meno fondate, ma mi attengo ai testi. E proprio a partire dalla mostra, ciò che mi ha maggiormente interrogato è stata la questione dell'identità. Approfondire che cosa significava per Freud l'identità ebraica, tedesca e anche proprio di intellettuale, di uomo di cultura del suo tempo. L'identità è un concetto molto complesso e che implica varie sfumature, come vari processi psicologici di identificazione, di proiezione, di imitazione, eccetera. Quindi io mi sono mosso un po', soprattutto privilegiando la citazione. Ecco, anche nel lavoro sull'archeologia sono partito dai testi, Non faccio commenti, non faccio interpretazioni io, lascio parlare i testi. E i testi bisogna andarli a trovare, bisogna sceglierli. Bisogna trovarne anche di quelli che non sono così citati perché non così famosi, ma che comunque contengono forse delle significazioni che non sono state prese in considerazione. E questa amore per la citazione che mi ha portato poi a raccogliere gli aforismi di tutte le opere di Freud in un volume per Lavoringhieri, è una, credo, un riferimento che ha il soffio della brevità, vive dal soffio della brevità, ma come scrive Elias Canetti, in ciascuno c'è il respiro che abbiamo imparato a conoscere nei libri lunghi. La brevità dietro la quale ci sono i libri lunghi. Ecco, queste citazioni mi hanno permesso di avere un approccio non teoretico, ma storico-critico, biografico, in riferimento all'identità di Freud, per la quale, dopo una serie di esami che ci sono nel libro, ho segnalato, ho rinvenuto tre caratteristiche. E sono partito anche da una domanda che Freud pone in una lettera nel 1936, scrivendo a Barbara Lowe a proposito del cognato che era morto. Scrive: eravamo entrambi ebrei e sapevamo di portare in noi il quid misterioso che fa l'ebreo e che è rimasto finora inaccessibile a qualsiasi analisi. Mi sono quindi chiesto in quale clima familiare, religioso, culturale, sociale sia nato questo, come scrive Freud, primogenito di una giovane madre che da quest'aria, da questa terra della Moravia, ricevette le prime indelebili impressioni. E allora andiamo in questa terra che lo ha fatto nascere, a Freiberg, dove appunto abita Jakob Freud. E la madre si chiama Amalia Nathanson, nata a Brody, tra l'altro, la stessa città di Philip Roth, il cui padre è un commerciante che gira appunto in tutte queste, nella Galizia e nelle terre vicine della Russia, e un giorno incontra casualmente Jakob, che anziché a Freiberg si trovava a Vienna, per anche lui per questioni di affari. Si incontrano, stringono probabilmente dei patti, e Jacob conosce Amalia. Sembra, per togliere un po' l'idea romantica di un matrimonio felice, sembra che sia stato un matrimonio combinato. Amalia aveva 20 anni, Jacob ne aveva già 41, era già stato sposato, aveva avuto due figli, poi aveva avuto un amante, e incontra Amalia e si sposano. Si sposano nel 54, quindi ritornano a Freiberg, dove Jacob vive, e nasce Sigmund Freud. Freiberg è una piccola cittadina che conta, della Moravia, che conta circa 4.500 abitanti, dei quali il 90% cattolici e il 5% ebrei. Quindi si trova Freud a nascere in un paese e in una minoranza rispetto alla maggioranza sia di religione cattolica che di lingua ceca, lui che appunto parla l'ebraico e il tedesco, insegnatogli dal padre. Ad aiutare Amalia c'è una bambina di nome Resi Wittek, che cito solo per il fatto che Freud scrive di lei: è stata la mia iniziatrice. È una donna brutta e vecchia, ma astuta, la quale mi parlò molto di Dio e dell'inferno. Infatti ogni giorno l'accompagnava in questa grande chiesa della Madonna e nel buio delle navate le parlava della religione, ma soprattutto dei peccati, delle punizioni, dell'inferno e dei demoni. Una presenza molto importante nella casa Freud è la Bibbia di Philipson. Philipson sono due medici che per la prima volta hanno pubblicato in forma di fascicoli una Bibbia in ebraico con testo tedesco a fronte, una Bibbia per ebrei riformati, quindi con una lettura della Bibbia, diremmo illuminista. Questa Bibbia è molto interessante, molto importante per Freud, oltre che per questo aspetto, questa interpretazione della Bibbia per ebrei riformati, perché contiene meravigliose immagini delle civiltà, dei grandi condottieri, delle grandi città, delle mitologie, e questo entrerà nell'immaginario di Freud e lo possiamo riscontrare come risultato di questa immersione nella vita immaginaria nella sua passione archeologica. Freud, come ho scritto in un precedente libro a proposito del rapporto tra psicoanalisi e archeologia, possedeva circa 3.000 statuette e questa passione probabilmente gli è nata proprio anche dalla presenza di questa Bibbia favolosa nella sua casa, la quale come particolarità aveva nel frontespizio l'immagine di Mosè. Questa Bibbia accende in Freud la passione per il conoscere e la curiosità per i viaggi. Dopo 3 anni circa, da Freiberg la famiglia si sposta a Vienna. Gli affari non andavano molto bene per Jacob Freud e quindi spostandosi a Vienna tentava di rilanciare questa sua attività di commercio in tessuti e in lane. Vienna, quando Freud e la famiglia Freud si sposta, cresce in un periodo in cui la nuova legislazione apre agli ebrei le prospettive favorevoli, ad esempio, di poter accedere all'università. Accedere, ma non di fare carriera universitaria, come sperimenterà Freud sulla sua pelle. Lui tenterà, dopo essersi laureato in medicina nel 1881, tenterà la carriera universitaria, ma immediatamente gli viene negata, tanto che i suoi maestri gli dicono: per te è meglio che tu faccia la professione privata, visto che hai una famiglia numerosa da mantenere, sicuramente qui sarebbe molto molto difficile per te avere una carriera. E quindi arrivato a Vienna si presenta per Freud un'apertura per poter appartenere alla cultura tedesca. Abbandonare la condizione ebraica, parlare, scrivere, lavorare come i tedeschi, era per gli ebrei di quel tempo e quindi anche per Freud una aspirazione e una modalità per emanciparsi. Viene era attraversata da forti flussi migratori provenienti dagli ebrei galiziani orientali, tanto che in quel tempo l'essere viennese è per sua natura ebraica e l'essere ebreo è viennese. A Vienna Freud conosce quella che diventerà la sua moglie, Martha Bernet. Martha Bernet, che era nipote di un famoso rabbino, capo, Isaac Bernet, di Hannover. Si conoscono, Freud si era laureato nell'81, si fidanzano e nell'86 decidono di sposarsi. Freud avrebbe voluto sposarsi solo col rito civile, lui non amava il rito religioso, ma la legislazione austriaca non lo permetteva. Così il 13 settembre fanno il matrimonio civile e il 14 quello religioso. Però Freud costringe ed ottiene da Marta la promessa che non ci sarà alcuna pratica religiosa nella sua casa, di nessun tipo. Quindi in casa Freud non si celebrava nessuna tradizione né rito ebraico, né abbiamo notizia dalla sua biografia o dalle sue corrispondenze che lui frequentasse anche occasionalmente la sinagoga. Marta è una figura un po' apparentemente secondaria, però è un carattere molto forte che assicura alla famiglia Freud una certa solidità, che con la sua fermezza riesce ad avere un ruolo di contenimento e di un punto di riferimento stabile per Freud. Lei non si interesserà mai di psicoanalisi. Sarà colei che governerà la famiglia, che organizzerà anche i viaggi di Freud, rimanendo però nel suo ruolo di madre e tutrice della famiglia. Un'altra figura importante in casa Freud è Anna. Anna Freud, una figlia non desiderata, perché già da qualche anno i coniugi Freud avevano stabilito di non avere più figli e non avevano più rapporti. Ma Anna nasce nel 1895 e la madre non l'accetterà, non avrà il latte, non avrà la baglia perché non c'erano abbastanza soldi. Nasce nella ristrettezza e nella negazione. Il padre poi lentamente in qualche modo l'aiuterà in questa sua crescita. E dirà che Anna ha gli stessi anni della psicoanalisi, 1895, infatti l'anno in cui c'è il famoso caso di Anna O, Oberta Pappenheim, che per Freud è la scoperta dell'interpretazione dell'isteria, e nascono in quegli anni gli studi sull'isteria. Ed è anche l'anno in cui abbiamo il famoso sogno descritto nell'interpretazione dei sogni, il sogno di Irma. Rifiutata dalla madre, viene salvata dal padre in maniera anche abbastanza discutibile. Ad esempio sappiamo che Anna è stata per alcuni mesi a Merano nel 1912, si trova a Merano da novembre fino al marzo del 13, un po' con scuse inizialmente anche un po' ingannevoli. Parte da Vienna, il padre dice: vai, ti farà bene essere a Merano. Siccome Anna era un po' era depressa, non mangiava, non sapeva più che cosa fare negli anni, non aveva nessun interesse né alcun progetto, dice: vai a Merano, il tempo laggiù ti aiuterà a mangiare, ti aiuterà a crescere, ti aiuterà a pensare, diventerai più ragionevole. È una frase che ricorre nelle lettere che intercorrono tra Freud e Anna. Ma quello che sembrava costituire un breve soggiorno diventerà un soggiorno molto lungo, perché proprio in quei mesi, a dicembre, avveniva il matrimonio della figlia preferita da Freud, Sophie, con la quale Anna era in profonda gelosia. Pertanto, per non complicare le cose, Freud aveva allontanato Anna in modo da poter celebrare il matrimonio senza grandi conflitti. Freud premierà questa pazienza della figlia nel 1913, allorquando a marzo verrà fino a Bolzano e qui si incontrerà con Anna e con sé la porterà fino a Roma. E diventa Anna una presenza abbastanza continua nella vita di Freud, si interesserà di psicoanalisi, parteciperà da uditrice alle serate del mercoledì in casa Freud, ma entra in relazione con Freud attraverso l'analisi. Una cosa sorprendente: Freud prende in analisi la figlia Anna in due momenti, nel 1918 fino al 1920 e poi dal 22 al 24, con un intervallo in cui Anna è affidata a lui, Andrea Salomè. Ora, è sorprendente, però considerati quei tempi non è così scandaloso. Pensiamo che anche Jung aveva in analisi un familiare, e così anche Melanie Klein ha avuto in analisi un figlio, e così anche Carl Abraham. Quindi in questa analisi di formazione, di approfondimento, Anna acquisisce quella serenità e quegli progetti di vita che prima non intravedeva. Diventerà importante soprattutto nel 1923, allorquando viene diagnosticato a Freud il tumore alla mascella. Ecco, in quel momento Anna diventa quello che lui chiama la sua Antigone. Le sarà sarà a lui presente, sia come aiuto, come infermiera, sia proprio come anche parte importante del movimento psicoanalitico. E tale rimarrà anche quando poi saranno costretti Freud a emigrare in esilio a Londra nel 1938 per le persecuzioni naziste, e Freud morirà nel 1939 e Meresfield Garden, la casa dove essi alloggeranno, rimarrà la casa di Anna fino all'82 quando lei morirà, e poi nell'86 diviene il Museo Freud, che oggi possiamo anche visitare, dove troviamo tutte le cose che appartenevano a Freud a Vienna, che sono state lì fortunatamente trasferite prima dell'avvento totale del nazismo. Il titolo del libro parla di identità di Freud, identità che io ho suddiviso in tre caratteristiche: di un ebreo, di un tedesco e di un irreligioso. Questi sono i caratteri fondamentali di Freud, perché la cosa che mi ha sempre stupito nel leggere le sue opere, nel leggere anche le biografie, i carteggi, è questa continua alternanza di Freud stesso rispetto alla propria identità. In certi momenti li troviamo come un ebreo convinto, un ebreo addirittura fanatico, scrive in talune lettere, altre volte dichiara di non avere mai appreso l'ebraico, di non conoscere nulla della cultura ebraica, in altri invece difende l'ebraismo. Ecco, questa se vogliamo ambivalenza di Freud verso le proprie origini ebraiche mi ha condotto anche come motivo per sondare nelle sue opere questo aspetto dell'ebraismo in Freud. Due grandi studiosi dell'ebraismo in Freud sono stati Peter Gay e Gerusalmi. Peter Gay ritiene che Freud sia un ebreo senza Dio, anzi un ebreo senza ebraismo, mentre Gerusalmi è molto più attento alla documentazione sulla formazione ebraica e all'ambivalenza di Freud in relazione a questo sentimento. Pensiamo che sicuramente Freud conosceva l'ebraico, perché il padre conosceva l'ebraico ed è stato il padre il suo maestro fino ai 7 anni. Quando si trova trasferito a Vienna, il suo maestro che lo informa e gli dà l'educazione circa la lingua, anche tedesca, è il padre, quindi sicuramente gli ha parlato dell'ebraismo. E poi il suo maestro sarà Hammerschlag, questo insegnante di ebraico e di latino che sarà molto affezionato a Freud, tanto che in certi momenti della vita e delle difficoltà economiche di Freud sarà colui che gli presterà del denaro. E sorprenderà il fatto che le citazioni nelle opere di Freud, le citazioni dalla Bibbia, sono molto più numerose rispetto ai suoi autori preferiti, che sono Goethe e Shakespeare. Le citazioni dalla Bibbia sono quindi anche importanti e sono non solo un elemento, diciamo, intellettuale, ma anche sono un elemento emotivo della partecipazione di Freud al pensiero ebraico. Essere ebreo per Freud non significa aderire alla religione ebraica, l'abbiamo visto, ogni rito era stato proibito nella sua famiglia. Infatti scrive nel 25: posso dire di sentirmi lontano dalla religione ebraica come da tutte le altre religioni, nel senso che non mi coinvolgono emotivamente, anche se nutro per esse un grandissimo interesse scientifico. Per contro, ho avuto sempre molto forte il senso di appartenenza al mio popolo, un sentimento che ho cercato di coltivare anche nei miei figli. Quindi per lui essere ebreo non significa essere partecipi della religione, ma fare parte del popolo ebraico. E in questo suo lavoro di appartenenza e di differenziazione C'è anche una sorta di mimetismo. Abbiamo visto in certi momenti, ad esempio quando è a Parigi e sta seguendo i seminari di Charcot sull'isteria, che per lui apriranno la strada poi per la scoperta della sua concezione, della sua terapia dell'isteria, in una discussione scrive: mi fu chiesto che cosa appartenessi come religione, io risposi: sono austriaco. Quindi vediamo che per lui è un momento sempre di grande difficoltà dichiararsi, perché giunto a Vienna per lui inizia un processo di assimilazione, e il processo di assimilazione ha anche in sé una grande insicurezza tra l'essere accettati e l'essere rifiutati, tra essere integrati ed essere emarginati. E così quando lui frequenta assiduamente, ad esempio, un'associazione culturale ebraica, Bnai Brit, cioè l'Alleanza dei Fratelli, o un'associazione nata in America alla metà dell'Ottocento e che si è espansa in tutto il mondo, quindi si trovava anche a Vienna, quando lui fa richiesta di appartenenza, tiene una prima conferenza nel 1897 e poi terrà lì tantissime, ogni anno una o due conferenze in cui in qualche modo anticipa quello che sta studiando, quello che sta pubblicando, e dirà: ben presto ebbi la certezza che soltanto alla mia natura di ebreo io dovevo le due qualità che mi erano diventate indispensabili. Poiché ero ebreo, mi trovai libero dai molti pregiudizi che limitavano gli altri nell'uso dell'intelletto. In quanto ebreo, fui sempre pronto a passare all'opposizione e a rinunciare all'accordo con la maggioranza compatta. Ecco, una cosa che lui ha sempre coltivato, tanto che parla di felice solitudine in alcuni anni in cui viene in qualche modo evitato dall'intelligenza viennese, è proprio questa sua non appartenenza alla maggioranza compatta, e non faceva nulla per appartenervi, quanto piuttosto all'indipendenza di pensiero, alla sua libero dai molti pregiudizi. E così scriverà anche nella prefazione ebraica a Totem et Tabù nel 1930, dal momento, un interlocutore ipotetico gli chiede: dal momento che hai lasciato cadere tutti gli elementi che ti accomunano ai tuoi connazionali, cosa ti è rimasto di essenziale? Allora Freud gli risponderebbe: mi è rimasto moltissimo, probabilmente ciò che più conta, ma non saprei dire di che cosa si tratti. Forse, dice Freud, si tratta delle molte oscure potenze del sentimento, tanto più possenti quanto meno era possibile tradurle in parole. Era qualcosa che era in lui molto possente, ma tradurle in parole non era così facile. Ma forse qualche cosa di essenziale lui lo scaverà nel suo lavoro su Mosè. Mosè è il monoteismo. E quindi cerca di dare una risposta storico-scientifica a quell'essenza che lui sentiva potente dentro di sé. Freud mirava non tanto di essere figlio di un uomo o di una nazione o di un popolo, quanto figlio della sua stessa opera, così come era stato Mosè, figlio della sua stessa idea del monoteismo e del popolo eletto. Quest'opera, L'uomo Mosè e la religione monoteistica, rimane per Freud un lavoro insicuro. Infatti la chiama un lavoro simile a una ballerina in equilibrio sulla punta di un piede. Freud respinse spesso inviti a sottoscrivere annunci a proposito del sionismo, perché non riteneva che la risposta all'antisemitismo fosse quella di una terra in cui rifugiarsi. Perciò in qualche modo restava un ebreo, se vogliamo, della diaspora, non l'ebreo che cerca una terra. Ebreo, e tedesco. La mia cultura, i miei risultati sono tedeschi. Intellettualmente mi sono sempre considerato tedesco. Il talento letterario, lo stile della scrittura di Freud, unito a una straordinaria immaginazione visiva e alla cultura umanistica appreso dagli studi ginnasiali in cui era un esempio, offrono a Freud una sintassi classicamente ordinata. L'arte della scrittura, la lingua di Freud, nascono da un'esperienza unica, dall'ascolto. Lui scrive dopo aver ascoltato. Lo vediamo ad esempio in tutti i suoi, non solo casi clinici, ma anche nella teoria. La teoria nasce dopo aver ascoltato ciò che i pazienti gli avevano rivelato, ciò che lui aveva letto dalle storie cliniche dei pazienti. Per cui è il primo a tradurre il resoconto clinico-psichiatrico nel romanzo e nel racconto del paziente. La storia del paziente si differisce da quello che erano abituati gli psichiatri a scrivere ed a scrivere al resoconto clinico. Le sue amicizie sono tedesche, molti scrittori intellettuali sono suoi amici, ne cito solo due che voi conoscete bene, Schnitzler, Zweig, ma uno tra questi è molto celebre ed è appunto Thomas Mann, che vede nella psicoanalisi, come scrive lui, un nuovo umanesimo che starà con le potenze del mondo sotterraneo, con l'inconscio, con l'ess, in un rapporto più ardito, libero e sereno e artisticamente maturo. E ancora apostroferà Freud come l'uomo e cavaliere triste e severo in volto, così come aveva detto Nietzsche di Schopenhauer. E a conferma della sua grande capacità di scrittore e di cultore della lingua tedesca, gli viene assegnato nel 1930 il premio Goethe, premio quindi massimo della letteratura tedesca, per lo slancio mefistofelico promosso dai metodi di ricerca, slancio inesorabilmente connesso con l'insaziabilità faustiana e con un tumore reverenziale per le forze immaginative e creative che sonnecchiano nell'inconscio. Se vediamo anche le opere di Freud, si leggono come un romanzo, che era stata una critica rivolta ad alcuni testi clinici di Freud da parte degli psichiatri, dei medici viennesi, avevano detto i suoi casi clinici si leggono come un romanzo. Ma è vero, non è che sono inventati, ma è tale la capacità stilistica e di scrittura di Freud che li rendono storia, storia vissuta, storia che proviene da un ascolto. E Freud non scrive in maniera staccata, in maniera scientifica, in maniera razionale. Scrive, certo, cose razionali, ma nella forma dell'empatia, dopo aver ascoltato e aver raccolto quello che i pazienti nel transfert gli hanno trasmesso. È sempre importante questa base, questo inizio del pensiero di Freud. Siamo qui. La terza caratteristica è del Freud irreligioso. Abbiamo appena sentito che lui non appartiene né all'ebraismo né ad alcuna religione. Perché Freud si è formato secondo i dettami della biologia inglese, della scienza sperimentale tedesca, è un illuminista, e secondo il motto parigino di Charcot, impara a vedere le cose, a guardarle e riguardarle finché non parlano da sole. E anche da studente ancora universitario scrive all'amico Silberstein nel 1873: mi sono iscritto a due corsi di teologia, lui medico, che si dichiara medico ateo ed empirico, seguo due corsi di filosofia. Di essi uno tratta dell'esistenza di Dio e il professor Brentano che lo tiene è una persona eccezionale, un dotto e un filosofo, nonostante ritenga necessario sostenere questa arcana esistenza di Dio con delle motivazioni logiche. Quindi vediamo che nonostante la sua direzione sia quella del medico, del neurologo, di colui che si occupa della psiche, questo elemento della religione entra subito nella sua curiosità e nel suo centro di interesse. A proposito della religione, scrive che il padre, il Dio personale, non è altro psicologicamente che un padre innalzato. Il Dio onnipotente e giusto e la natura benigna ci appaiono come grandiose sublimazioni del padre e della madre, anzi come repliche e reintegrazioni delle immagini che il bambino piccolo ha di entrambi. Perché già nei suoi scritti la religione è per lui significativa dell'impotenza infantile dell'essere umano. Il Dio è il padre grande e onnipotente a cui il bambino, il credente, si rivolge per poter essere aiutato. Ecco, questo rapporto di dipendenza dell'uomo dalla figura di Dio è questa che a Freud non contesta, che contesta alla figura della divinità. Freud, durante la sua esperienza clinica, si era incontrato con i nevrotici ossessivi. E i nevrotici ossessivi sembrano posseduti da una potenza sconosciuta, da un Dio sconosciuto, che li costringe a rituali, a ripetizioni, senza potersi opporre. Costrette ad eseguire i cerimoniali, seguendo leggi rigorose, soffocanti, come se un Dio sconosciuto li tenesse in pugno. Penso che anche a voi sarà accaduto di imbattervi in questi casi più o meno gravi. E queste persone ripetono gesti, parole a volte, come se una voce interna possente li costringesse ad essere così e non diversamente. Ecco che per Freud ciò che nell'ossessivo, nella persona nevrotica, costituisce una sorta di religione privata, a livello dell'umanità, la religione diventa una sorta di ossessione. E abbiamo un episodio, Freud viaggiava molto in Tirolo, anche in Sudtirolo, e un giorno scrive all'amico Birschwanger: l'immagine dei signori Dio in questa terra sono più numerose dei signori pellegrini. Così tanti erano i crocifissi che trovava per via da essere ancora più numerosi di coloro che attraversavano quella via. Dice: dopo questa mia affermazione non sarò più accolto in Tirolo. La sua ricerca intorno alla religione sorge attraverso l'opera Totem e Tabù. Per cui l'ebreo senza Dio è per Gerusalemme anche una figura tipica del XIX secolo. L'ebreo che non si riteneva più rappresentato dal suo Dio diveniva appunto un ebreo senza Dio e aveva una serie di surrogati laici. Ad esempio, era una personalità intellettuale, indipendente come pensiero, dagli elevatissimi criteri morali e da una tenacia persistente contro la persecuzione. Ma l'ebreo emancipato è sempre stato visto anche con sospetto, se non con odio, perché metteva in crisi il vecchio ordine feudale. Ecco, qui abbiamo una forte differenza, ad esempio, tra Freud e Jung. Freud parlerà sempre di Dio, di religione, ma nel senso del Dio padre. Jung invece parlerà della religione sotto l'aspetto della divinità, del luminoso. Freud scriverà a Jung: la psicoanalisi non è un surrogato della religione, e Jung le risponderà: le religioni sono sistemi di guarigione, non sono sintomi di malattia. E quindi abbiamo una grande differenza tra le due concezioni. Per Jung la religione ha a che fare col luminoso, col divino, ed è quindi tutta un'altra prospettiva con cui lui guarda la religiosità e l'essere religiosi negli uomini. Mi avvicino alla fine, per cui dopo questa trattazione sorge la domanda se la psicoanalisi sia una scienza ebraica. Io scrivo che seppure la psicoanalisi contenga profonde tracce della scienza ebraica, non è tuttavia una prerogativa esclusiva del mondo ebraica, ma rappresenta un tesoro di conoscenze create dal genio di Freud per la cura dell'umanità. In una delle sue conferenze, sempre alla questa associazione ebraica, Bnei Brit, del 1915, scrive: «Sono sempre stato un non credente, sono stato educato senza religione, seppure non senza rispetto verso quelle che si definiscono le istanze etiche della civiltà umana». E scrive ancora: «Ho potuto aiutare, senza bisogno di turbarle nella loro individualità, persone con cui non avevo in comune nulla, né la razza, né l'educazione, né la posizione sociale, né la concezione del mondo». Perché l'inconscio freudiano è irriducibile a qualsiasi ideologia e a qualsiasi religione. E si chiede: forse non è stato un fatto puramente casuale che il primo esponente della psicoanalisi, il suo fondatore, fosse un ebreo? E infatti quel forse è più un'affermazione che un dubbio, perché l'ebraismo ad aver maggiormente indagato la tragedia dell'origine, ed essere ateo significava interpretare psicologicamente il processo di secolarizzazione e il valore della tradizione religiosa. La mia condizione di ebreo mi ha aiutato a sopportare le critiche, l'isolamento, a lavorare da solo, ma che la psicoanalisi sia di per sé un prodotto ebraico mi sembra un'affermazione piuttosto eccessiva. Si tratta di un lavoro scientifico che non può essere né ebraico, né cattolico, né di un'altra religione. La psicoanalisi fin dall'inizio è stata internazionale. Collegata a questa affermazione per cui i suoi nemici dicevano che non poteva che essere ebraica, in quanto voi sapete che all'inizio della psicoanalisi il gruppo che si trovava intorno a Freud era formato per lo più da ebrei, ma questo perché era la situazione della città a creare questo contesto, e soprattutto perché l'ebreo aveva maggiore sensibilità intorno alle ragioni dei disturbi psichici, che non fossero letti secondo le lenti della psichiatria. I dimostratori della psicoanalisi, oltre al fatto che fosse ebraica, la religione ebrea, diceva che non poteva che essere nata a Vienna, in un clima di licenziosa libertà, di sensualità, un'atmosfera di malcostume, come allora veniva vista Vienna. Risponde Freud: fra gli ultimi attacchi vi è quello che, attraverso il trasferimento della psicoanalisi tra Vienna e Zurigo, appunto con Jung, che poi invece salterà, io avrei voluto prevenire l'obiezione che la sensualità viennese non si possa trovare altrove, ma fra le righe si può anche intendere che i viennesi, oltre che essere maiali, sono anche ebrei. Ecco, cioè, era un'accusa funzionale all'accusa di ebraicità della psicoanalisi. Ma proprio rispondendo anche a questa obiezione, dice Freud, io non sono mai stato un medico, non mi sono mai considerato un medico, sono stato piuttosto colui che ha cercato nella sua vita di illuminare gli enigmi del mondo. E appunto, ciò nonostante ci sono delle assonanze tra la psicoanalisi e l'ebraismo, si possono trovare, ad esempio che l'interpretazione dei sogni ha a che fare con la lettura dei sogni, ad esempio i sogni di Giuseppe nella Bibbia. E ci sono delle affinità tra la concezione ebraica e la concezione della psicoanalisi in relazione al tempo, alla memoria, alla razionalità. E Freud si avvicinerà anche al mondo ebraico in un suo scritto molto divertente, il Witz, il moto di spirito della sua relazione con l'inconscio. E questo a conferma della centralità della parola. L'analisi esiste perché c'è parola. Se non c'è parola, non c'è analisi. La parola parte l'analisi parte dalla parola del paziente. Anche il silenzio è parola. Quindi centrale nell'analisi è la parola e la significazione più che il significato di quello che viene detto. E con questo suo libro sul moto di spirito Freud vuole anche un po' riavvicinarsi alle sue origini Yiddish. La madre era Yiddish e pertanto è un po' una riconciliazione con il mondo che lui aveva abbandonato migrando a Vienna. E per concludere appunto un motto di spirito che Freud nei suoi scritti dissemina e che troviamo allorquando nel 38 è costretto a migrare in esilio a Londra, scrive all'amico Max Eitingon dandogli i dettagli degli ultimi avvenimenti del suo viaggio in treno a Parigi, raccolto da Marie Bonaparte, poi a Londra. E scrive: l'incanto per il nuovo ambiente potrebbe addirittura farci esclamare Heil Hitler. Questo anche vi dà il senso di questo esilio che Freud affronta nel duplice senso di liberazione e di morte, liberazione dal destino che purtroppo molti ebrei vivranno, di essere eliminati dalla furia nazista e purtroppo tre sorelle non poterono con lui partire per Londra, perché per poter partire l'Austria richiedeva una forte somma di denaro per ogni ebreo e l'Inghilterra chiedeva che chi emigrava avesse un lavoro per potersi sostenere. Ora le tre donne anziane, le tre sorelle anziane, non poterono partire con Freud. Freud lasciò loro tutto quello che aveva in dollari affinché si potessero sostenere. E addirittura quando nel novembre del 39 si trova a Londra, scrive a Marie Bonaparte che, essendo principessa di Grecia, aveva grande potere diplomatico, di trovare il modo per poterle trasferire almeno in Francia, ma ciò non fu possibile. E nel 42 abbiamo appunto potuto trovare nella documentazione del Museo Ebraico di Gerusalemme, ringrazio ancora Parmezzani, che una sorella venne deportata a Terezin nel 42, le altre tre morirono a Treblinka. Liberazione e anche morte, appunto perché con il cancro alla mascella Freud dal 23 sopportava continue più di 30 operazioni e non c'erano grandi speranze né farmacologiche né di altro tipo di intervento chirurgico per poterlo salvare. E quindi vede tutto questo come ancora una volta l'ebreo errante che va verso la propria fine. E una curiosità che ho scoperto leggendo un po' alcune biografie, l'ultimo libro che si posava sul comodino di Freud è stato La pelle di Zigrino, un romanzo di Elémir de Zola, de Balzac. Honoré de Balzac, che ha scritto questo romanzo in cui Freud sicuramente ha trovato alcune analogie con ciò che lui aveva indagato nel suo percorso di analista. E riguardava la febbre del gioco, il patto con il diavolo, e la lotta di amore e morte, e poi in questo talismano, che è questo zigrino, che questo personaggio tiene in mano e che sfrutta per avere sempre di più, per soddisfare sempre di più i propri desideri, ma ogni desiderio che veniva soddisfatto diminuiva questa pelle di zigrino finché si trova senza più nulla. Ecco, anche una lezione che Freud dà nella sua ultima lettura della sì, indistruttibilità del desiderio, ma anche nella sua essenza di morte, nella ricerca di un appagamento che non ha fine. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Intanto ringrazio chiaramente il dottor Marchioro, è stato molto interessante. Ecco. Prego. Mi piacerebbe sentire qualcosa di più su Mosè e il monoteismo. Sì, su questo ci vorrebbe un'altra conferenza però, perché è veramente un'opera che Freud inizia nel 1934 e scrive i primi due capitoli, Mosè egizio e se Freud era egizio e se Mosè era egizio, però poi la lascia nel cassetto perché le condizioni storiche non erano favorevoli, una, e secondariamente perché lui stesso era ancora incerto sugli esiti di questa ricerca. La storia di Mosè si fonda su testimonianze e su reperti molto incerti. Molti sono gli studiosi che se ne sono occupati, con risultati molto differenti. Quindi per Freud si è trattato di una ricerca di sfondo storico e aggiunge una ricerca storica suffragata da elementi di somiglianza. Quindi non è un'interpretazione che lui dà della storia biblica di Mosè, ma una ricostruzione sul modello che lui aveva appreso dal metodo dell'archeologia. Costruire prendendo i pezzi, mettendoli insieme e creando negli spazi in cui ciò non coincidevano o non erano sufficientemente documentati, con delle verosimiglianze. Ecco, questo è un po' stato il lavoro che, scrive Freud, è un lavoro che non mi lascia pace. Mosè non mi lascia pace per tutti questi anni. È un lavoro che lui terminerà nel 37-38. I due primi capitoli del 34 rimangono non pubblicati e li pubblica solo nel 37 nella rivista di psicoanalisi Imago Ricerche di psicoanalisi applicata. Il terzo capitolo e poi l'edizione del libro avverrà nel 39, quindi lui muore nel settembre 39, a marzo del 39 escono due copie in Olanda. Per dirvi quale travaglio è per lui l'opera Mosè, l'uomo Mosè e la religione monoteistica, perché lui sa con quest'opera di scontentare molti dei suoi fratelli, che lo contesteranno in maniera molto vivace. Però, dice, io ho seguito la verità in tutta la mia vita e non voglio che gli ultimi anni siano invece di un uomo vile che ha paura di pubblicare ciò che la sua ricerca storica ha prodotto a proposito della figura di Mosè. Già di Mosè si era occupato in un piccolo saggio che io vi consiglio. Quando andate a Roma, andate a visitare San Pietro in Vincoli, la statua di Mosè di Michelangelo. Andate con questo piccolo saggio che Boringhieri pubblica anche separatamente dalle opere, il Mosè di Michelangelo. E Frodi si era imbattuto in questa statua nel 1912, già prima quando andava, 1901, altre volte, insomma a Roma l'aveva vista, però nel 12 si sofferma. Ogni giorno scrive, mi sono recato a San Pietro in Vincoli, ho preso la salita che porta in questa piazza dimenticata e sono entrato nella chiesa di San Pietro in Vincoli e sono stato lì ad interrogare Mosè. Ogni giorno ha preso appunti, addirittura ha fatto degli schizzi. Ed è un'interpretazione che voi vedrete, se le leggerete, se andrete lì a vedere il Mosè di Michelangelo, troverete quasi una... lo vedete sezionato quasi anatomicamente, parte dai capelli, dai ricci, dalla barba, dalle mani, dalla posizione delle mani tra i riccioli della barba, la gamba, i nervi, i piedi, le tavole che sembrano che stiano per cadere, eppure Mosè le trattiene quelle tavole. E non è un caso che quest'opera nasca nel 12. Abbiamo nel 12, ormai evidente, la rottura con Jung. E Freud si era paragonato a Mosè, che però come Mosè anche lui non avrebbe visto la terra promessa, mentre Jung, che sarebbe stato Giosuè, l'avrebbe conquistata. Ma ciò non accade, perché appunto c'è questa rottura tra Freud e Jung, motivatissima. Se voi leggete Simboli della trasformazione del 1911, lì ci sono i germi già di un'altra psicologia, la psicologia analitica di Jung, rispetto a Freud. Anche se nella stesura di questo libro Jung continuerà a scrivere l'inconscio collettivo, ma questo non critica l'inconscio di Freud, l'Edipo, sì, ma questo non critica l'idea di Freud che ha della sessualità, ma è evidente che dentro c'erano già i germi di una propria psicologia e noi dobbiamo essere grati a Jung per aver avuto il coraggio di separarsi da Freud. Non era facile, Freud era un tiranno. Lo possiamo anche motivare, perché in quegli anni lui stava costruendo la sua teoria della psicoanalisi e aveva bisogno di un gruppo fedele a quello che lui andava teorizzando. Quindi cercava che chi era intorno a lui fossero persone che condividevano le sue idee. Quindi non poteva permettere, come Adler, ad esempio, o Steckel, che si allontanassero. Ma Jung era un'altra cosa, non aveva solo divergenze, era un'altra psicologia ed ha avuto molto coraggio. Noi dobbiamo essere grati, perché grazie a Jung abbiamo due psicologie del profondo. Anche rispetto a tantissimi temi, abbiamo trattato quello della religione, sono due visioni della psiche totalmente differenti e inconciliabili. E mi piace ricordare una delle ultime lettere che Jung scrive a Freud, laddove dice: le rispondo con le parole di Zarathustra. Si ripaga male un maestro se si rimane per sempre allievi. E lui non si sentiva più un allievo. Quindi il Mosè era per lui, poi pensiamo al Mosè del frontespizio della Bibbia di Philipson. Il Mosè era una figura che lo stava continuamente perseguitando. Lo dice, non mi lascia pace. Anche perché lui si sentiva il Mosè della psicoanalisi, che avrebbe portato la psicologia in una terra nuova, in una terra dove finalmente l'uomo avrebbe trovato casa, conoscenza e comprensione. E una cosa, ad esempio, abbiamo visto che l'uomo Mosè della religione monoteistica, 34, compare solo nel 37, i primi due capitoli rimaneggiati, e pubblicata solo nel 39. Il Mosè di Michelangelo viene scritto nel 12 e viene pubblicato nel 14, senza nome. Nel 15, in una seconda edizione, Freud appone il suo nome. Dirà che aveva paura che questo scritto, che non è proprio psicoanalitico, gli portasse delle critiche da coloro che ritenevano la psicoanalisi più un approccio alla cultura che alla clinica. Ma effettivamente c'è di mezzo Mosè, questo inquieto personaggio che non gli lascia scampo. Di Mosè, ad esempio, di Michelangelo, lui darà un'interpretazione totalmente nuova grazie a queste sue osservazioni quotidiane e sottolineature nei suoi quaderni. Il Mosè veniva interpretato come capace di scatenare l'odio contro gli infedeli. La figura di Mosè che quasi si è vista nell'atto di alzarsi con tutti questi nervi tesi, veniva interpretato tesi al suo alzarsi per andare a punire il popolo che nell'assenza in cui lui era stato ad avere in consegna le tavole della legge si era dato agli idoli, aveva cercato degli idoli. Freud dice no, in Mosè noi ammiriamo la potenza, la sua capacità di una pacatezza esteriore e di una commozione interiore. Infatti, lui dice, le tavole della legge sono oblique, ma non sono cadute, non si sono infrante. Se Mosè fosse stato veramente adirato, come interpretano la maggioranza dei critici, le tavole si sarebbero rotte, sarebbero cadute, e sarebbero cadute in pezzi, ma invece sono lì, appoggiate al suo scranno, ben salve. Ecco, come a dire, nonostante alcuni si diano agli idoli, cioè ad altre psicologie, le tavole della legge della sua psicoanalisi non sono infrante, sono salde. E lui è quel Mosè che è stato capace di dominare la passione in vista di un progetto molto più ampio, di una sua realizzazione. L'uomo Mosè e la religione monoteistica è un'opera che si svolge non per interpretazione, abbiamo detto, ma per costruzione. Costruzione della verità storica, che sono contraddittorie, sono rapsodiche, e che lui utilizza attraverso questo metodo della verosimiglianza e della minima resistenza. Per cui scrive, rappresentare una realtà storica con verosimiglianze psicologiche, amplificazioni, condotte su eventi e non su cronologie. Certo, anche questo gli apparirà un lavoro senza solide basi o non così forti, come una statua di bronzo scrive dai piedi d'argilla. Ma si poggerà in questa ricerca anche ad altre opere che nel frattempo erano sorte sul Mosè. Ad esempio, un'opera che ho avuto, insomma, il piacere di tradurre in italiano, di Otto Ranka, sul mito della nascita dell'eroe, in cui è descritto anche il mito della nascita di Mosè. Su un saggio di Karl Abraham, suo allievo, che per primo si è occupato di Amenofi IV e del culto della personalità del monoteismo di Aton, nel 1912 Abraham ha appena scritto questo testo e un gruppo di psicoanalisti di Zurigo si incontrano con Freud a Monaco per un convegno. E Freud e Jung intrattengono una lunga camminata e una lunga discussione prima di questo convegno, per cui quando arriva la cena si siedono a cena e continuano a discutere proprio sull'interpretazione di Amenofi IV. Amenofi IV è quello che è subentrato a Amenofi III, ha introdotto il monoteismo e, tra le altre cose, il culto di Aton al posto del culto di Amon, tanto da chiamarsi lui stesso Eknaton, e ha cancellato tutte le iscrizioni, i cartigli si chiamavano, in cui appariva il nome di Amenofi III e il dio Amon. Questo significava un parricidio, secondo la visione psicologica, quindi una uccisione del padre, secondo Freud. Per Jung, invece, che aveva scritto di Amenofi IV nel suo Simboli della trasformazione, vedete che anche lì c'è un seme di discontinuità e di differenza, questa cancellazione del nome di Amenofi III e della divinità Amon non significava un parricidio, perché, dice Jung, anche altri avevano, nel loro diventare a loro volta faraoni, avevano cancellato alcune di queste iscrizioni. Quindi non era automatico che Amenofi IV fosse un parricida. La discussione è talmente accesa che Freud sviene. Era la seconda volta che Freud sveniva, però è interessante. Freud sviene nella contestazione che l'atto di Amenofi fosse un atto di parricidio da parte di Jung. Freud sente che Jung sta operando un parricidio verso di lui. La negazione di Jung lo mette in grande disagio, al punto che preferisce svenire, cioè togliere la propria presenza, e quindi dichiararsi morto piuttosto che sia Jung ad ucciderlo. Sviene per un po', poi rinviene, la serata si conclude, e così. Certo, anche altri libri, altri scritti di egittologi, di teologi come Edward Meyer, Hugo Gressman, James Henry Breasted e soprattutto Ernst Celin sono le basi dell'interpretazione che Freud dà dei testi che gli vengono consegnati dagli studi su Mosè. Dico solo l'ultima cosa, poi vi lascio anche un po' il libro, è una curiosità, che tutte cose che troverete nel libro dispiegate in maniera molto più ampia. Le tre tesi principali dell'uomo Mosè e la religione monoteistica sono che Mosè era egizio e l'origine egiziana di Mosè toglie al monoteismo giudaico la sua preminenza. Prima viene il monoteismo egizio e poi il monoteismo giudaico. Poi l'uccisione del profeta da parte dei suoi fedeli, i semiti, e l'adozione parziale del culto e del legalismo yavista, come pure il ritorno del monoteismo di origine egizia attraverso i profeti. Freud scrive: non è un'impresa gradevole né facile privare un popolo dell'uomo che esso stesso celebra come il più grande dei suoi figli, tanto più quando si appartiene a questo popolo. E lui, appunto, non apparteneva alla religione, ma al popolo ebraico sì. Ecco, tante altre cose poi le trovate, e grazie della domanda. Grazie, se vi può interessare, nel frattempo ho scritto un romanzo giallo. E così togliamo un po' questa atmosfera serious. Ed è un romanzo che ha come titolo La tela spezzata. Rapimento sulla Freud Promenade. C'è sempre Freud, però qui è insomma solo un riferimento, diciamo, geografico. E grazie. E questo romanzo tratta appunto di un rapimento, e il rapimento ha tante valenze. Siamo rapiti anche da un grande, da un bellissimo paesaggio. Siamo rapiti da un grande innamoramento. Siamo rapiti da un grande delirio. E poi siamo anche realmente rapiti, come accade poi nel racconto. E vi lascio la sorpresa della lettura. Grazie.